24 mattino di Alessandro Milan. 7:19, eccoci cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino, ci trovate anche su Facebook, basta andare 24 mattino ed eccoci lì, comparire con le nostre discussioni. Di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Alle 8:30 parliamo di queste decisioni di comuni come Milano, Torino, di avere bloccato il traffico ieri per combattere l'inquinamento. Tornano le domeniche senza traffico, sono provvedimenti che servono. Questo vi chiediamo, secondo voi sono utili questi provvedimenti contro lo smog delle città? Ne parliamo alle 8:30, voi votate su radio24.it come state già facendo in molti e da cosa iniziamo come al solito dai giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 31 gennaio, l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore si concentra sul fisco, sanzioni fiscali più pesanti, da domani le penalità maggiorate su ravvedimento e concordato. Mentre c'è chi sceglie la politica, come il Corriere della Sera, piano bipartisan per la crescita, la proposta di Berlusconi, anche perché il Corriere della Sera ospita in prima pagina un intervento proprio del Presidente del Consiglio che lancia questa proposta all'opposizione, l'offerta a Bersani, agiamo insieme. C'è chi sceglie l'Egitto, i militari a Mubarak, dimettiti, è l'apertura della Stampa, anche Repubblica, Egitto, la sfida di El Baradei, il Messaggero, Egitto, il regime vacilla, e anche l'Unità cercando un altro Egitto, la foto di alcuni manifestanti. Mentre l'apertura del giornale, vogliono l'ammucchiata, altro che bunga bunga, ci si riferisce alla proposta di D'Alema di lanciare l'alleanza per abbattere Berlusconi, vogliono l'ammucchiata, questo è il titolo del giornale. Voglio partire dalla segnalazione di due storie, la prima dal Corriere della Sera, a pagina 19, il re dei trapianti della trachea resta senza cattedra, una storia purtroppo tutta tipica italiana, volevo tornare in Italia, sono fermato dai baroni. È la storia del professore Paolo Macchiarini, che racconta Agostino Gramigna sul Corriere. È un professore stimato in tutto il mondo, è l'unico al mondo in grado di trapiantare trachee, tanto che ha creato un'equipe internazionale, ha lavorato un po' in tutto il mondo. 20 anni fa, dopo aver lasciato l'Italia, ha lavorato in Spagna, Germania, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Russia, ora a Stoccolma. Ebbene, racconta il Corriere, però a Firenze, nella sua Firenze, lui che è fiorentino, non può lavorare. Per la verità era tornato in Italia qualche anno fa, ho provato a lavorare, ma qui sono finito nel giro dei baroni, racconta questo professore ad Agostino Gramigna. Inconsapevolmente sono finito in lotte di potere all'interno del mondo accademico, ora mi screditano, mi accusano di aver falsificato il curriculum, mi dicono che i pazienti operati da me non stanno bene, invece 9 su 9 stanno benissimo, sono vivi, leggo che avrei effettuato visite in nero, che avrei utilizzato cellule staminali in barba alla legge, io nemmeno li conosco i colleghi che mi fanno questa guerra, possono verificare tutto, ho ottenuto tutte le autorizzazioni, non faccio visite in nero. Rimane per il momento a Firenze in attesa, ma denuncia di essere finito in questi giochi di potere tra baroni. E il re dei trapianti della trachea resta senza cattedra, è la sua storia raccontata dal Corriere della Sera. Mentre una storia misteriosa, sotto la dicitura giallo in Veneto, viene presentata dalla Stampa, pagina 7. Che sta succedendo in una frazione a Fadalto, per la precisione in frazione di Vittorio Veneto? Il titolo è «La minaccia della montagna che mormora». Ci sono da alcuni mesi dei misteriosi boati che stanno terrorizzando una piccola valle. Racconta Beniamino Pagliaro, arriva il boato e Giuseppe Berton guarda l'orologio e annota. Altro boato, orologio e penna. Il quaderno si è riempito presto di una lista di sordi rimbombi, troppi per non insospettire e impaurire. A Fadalto, frazione di Vittorio Veneto, una piccola valle incastrata tra il Col Visentino e l'altopiano del Cansiglio, è stata la gente a segnalare il caso ai vigili del fuoco. È una zona fortemente sismica, le frane non sono sconosciute. La protezione civile pare stia già lavorando a un piano possibile di evacuazione, sta di fatto che da mesi si registrano almeno dal 10 gennaio 60 boati misteriosi, le cui case sono misteriose, se è ipotizzato la cava lì vicino, oppure i nuovi scavi, le infrastrutture, poi cause naturali. Sta di fatto che sono arrivati anche esperti sismografi per cercare di capire che cosa stia succedendo. Si parla di assestamenti delle falde dopo le pesanti piogge. Alcuni ipotizzano ipotesi sismiche, altri le escludono. Sta di fatto che questi boati raccontati dalla stampa, pagina 17, ora stanno diventando una minaccia, un timore, la minaccia della montagna che mormora. Lo trovate sulla stampa a pagina 17. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo dalla politica, dall'Egitto. Queste le due notizie che troviamo in primo piano sui giornali in edicola. In primo piano. La politica si interroga sulla proposta di Massimo D'Alema. Questo è il tema che trovate più sviluppato. Massimo D'Alema ha detto ieri, in sostanza, bisogna fare un'alleanza di tutte le forze, di tutte le coalizioni contro Berlusconi per abbattere Berlusconi. E sui giornali oggi viene sviluppato questo tema, e tra l'altro l'altro tema è quello di una frenata da parte di Berlusconi nei confronti del voto anticipato. Il premier esclude le urne, ho avuto 7 fiducie, Marco Galluzzo ne parla al Corriere della Sera. Premessa, Berlusconi non parla, tranne i videomessaggi, non parla da giorni, pare non voglia parlare, però tutto quello che ritroviamo sui giornali sono virgolettati attribuiti a lui. Insomma, si cerca di sindacare, di capire quello che siano i suoi stati d'animo riguardo alla politica. Riguardo alle elezioni, ci sarebbero contraccolpi sui mercati, dunque un tentativo di una frenata. Abbiamo avuto 7 volte la fiducia dall'estate a oggi, andare al voto sarebbe certamente impossibile, andiamo avanti. Ha bollato, credo, come derelitti quelli del terzo polo nei giorni scorsi, ora dice è un'idea di una sgangherata. Quella di D'Alema è l'idea di una sgangherata sacra unione che sarebbe vista male innanzitutto dagli elettori, un'idea irrealistica, ci perderebbero la faccia, quasi quasi ci farebbero un favore, pare sia il pensiero di Berlusconi. Un Berlusconi che anche per il Messaggero, il Cavaliere, resto, se vogliono, mi sfiducino in Parlamento, questo se hanno i numeri. E riguardo a D'Alema e alla volontà appunto di mettere insieme tutte le forze per far cadere Berlusconi, sono vecchi giochi di palazzo, questa la posizione di Berlusconi, che va dunque alla prova di forza politica a dire mi vogliono sfiduciare, mi sfiducino in Parlamento con i voti. Il giornale la definisce senza troppi mezzi termini l'ammucchiata, vogliono l'ammucchiata, altro che bunga bunga. D'Alema lancia una santa alleanza per abbattere Berlusconi e andare subito al voto con un imbroglio di palazzo. E c'è anche l'editoriale perché è meglio evitare le elezioni, firmato da Marcello Veneziani. Certo, come sappiamo, il lunedì la politica si anima soprattutto con una serie di interviste, visto che i commenti sono meno, anche i politici fanno il weekend, ed eccole qui le interviste. Ne volete alcune? Intanto Italo Bocchino, intervistato da Carmelo Lo Papa su Repubblica, è più duro del solito, paragona Berlusconi a Ben Ali, il dittatore della Tunisia che è dovuto fuggire all'estero in una delle rivolte che stanno animando tutto il Maghreb. Il Cavaliere tra poco dovrà dimettersi, anche Ben Ali all'inizio non voleva, così dice Italo Bocchino. Quando tra 10 giorni sarà imputato in un processo per prostituzione minorile, allora dovrà farlo, cioè dimettersi, rispettando la volontà del 60% degli italiani convinto che la situazione sia insostenibile. Anche Ben Ali non avrebbe voluto lasciare, anche Mubarak non vorrebbe farlo, dunque anche a Mubarak lo paragona Italo Bocchino. Evoca scenari da Maghreb, chiede Carmelo Lo Papa. Ma no, l'Italia è una democrazia solida, non arriveremo a tanto. Ma certo, poi parlando del processo di Berlusconi, Bocchino dice questo: un paio di passaggi complicheranno la posizione del premier. Quali? Chiede Repubblica. Il primo, quando l'opinione pubblica prenderà atto che la Minetti, organizzatrice delle cene, manager delle ragazze dell'Olgettina, percepirà in 5 anni 800.000 euro, tutti i soldi dei contribuenti, come consigliere regionale. regionale. Il secondo è l'elemento droga. La Polanco ha frequentato Arcore anche dopo che il suo fidanzato è stato fermato per la detenzione di 12 kg di cocaina, in parte nascosto nell'auto della Minetti. È inaudito che il Presidente del Consiglio abbia continuato a riceverle nella sua residenza. Sono elementi destinati ad aggravarsi, a scavare una voragine nei consensi. Questo è Italo Bocchino, mentre sempre su Repubblica Nichi Vendola boccia la proposta di D'Alema, dice niente alchimie, niente alleanze, bisogna andare alle urne, l'ho chiesto io per primo, è indispensabile, non mi piacciono le alchimie di D'Alema. Quindi già Vendola, così come anche Di Pietro, pare abbiano bocciato la proposta appunto di un'alleanza politica per abbattere Berlusconi. A proposito di interviste, vi segnalo invece Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, intervista al ministro dell'Interno Maroni. A pagina 5, un'intera pagina, Maroni: condivido i timori di Napolitano, giovedì è decisivo, federalismo o elezioni. Dunque la Lega, che punta molto sul federalismo, e questa è la settimana decisiva. Infatti Maroni inizia così la chiacchierata con Fiorenza Sarzanini: se giovedì il federalismo non passa, andiamo tutti a casa. Sta pensando alle elezioni? Noi ci stiamo pensando da tempo, anche perché questa incertezza costante in cui vive la politica non consente di fare previsioni certe. C'è uno scontro tra le istituzioni dal quale si deve uscire al più presto per far ripartire l'attività di governo. Dunque lei condivide le preoccupazioni del presidente Napolitano? Chiede il Corriere. Ne ho parlato recentemente con lui, risponde Maroni. Credo che questo contrasto rifletta il fatto che al vertice delle istituzioni ci sono leader politici. Del resto viviamo in un paese governato per 40 anni dalla Democrazia Cristiana, che utilizzava le istituzioni come strumento di lotta politica, ed è questo un peccato originale della politica italiana che allarma. Poi, parlando al futuro, Maroni, riguardo alla fedeltà a Berlusconi e alla domanda «sarà lui il vostro candidato premier?», non se n'è parlato perché Berlusconi ha sempre respinto l'ipotesi del voto. «Vedremo», risponde Maroni. «Nel centrodestra ci sono tanti uomini e donne capaci, competenti, dotati di leadership, in grado di guidare un governo se Berlusconi decidesse di non essere lui il candidato premier». Maroni poi parla di altri temi, come anche il timore che dalla rivolta del Maghreb, ora l'Egitto ma prima la Tunisia, possa venire quella che lui chiama l'invasione. Noi siamo la porta dell'Europa. Quando leggo che un carcere di massima sicurezza egiziano è stato dato alle fiamme e detenuti scappati, prevedo che effetti potrebbe avere questa situazione. Già dalla Tunisia arriva qualche piccolo segnale, e dunque è proprio l'Italia a dover guidare l'Europa in questa fase, tenendo conto che dalla stabilità di questi stati dipende anche la nostra stabilità. Questo Roberto Maroni, intervistato dal Corriere, mentre, come detto, l'analisi più interessante, o meglio il punto più interessante, è che Silvio Berlusconi, che non parla ufficialmente, ha preso però carta e penna e ha scritto una lettera al Corriere della Sera. Il tema è quello sul quale già Berlusconi ha fatto un'intervista venerdì al Foglio, vale a dire la patrimoniale, la proposta di inserire una patrimoniale secca. È una proposta che è partita dall'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato per abbattere il debito, e dunque una patrimoniale secca per i redditi più alti, per cercare di abbattere il debito pubblico italiano alle stelle. Una proposta che Berlusconi ha già bollato come una proposta di sinistra e che non verrà mai inserita dal suo governo. Ancora Berlusconi in questa lettera dice mai la patrimoniale. È assolutamente una botta secca, ingiusta, inefficace sul lungo termine, deprimente per ogni prospettiva di investimento, e questa, così la definisce Berlusconi, e con il mio governo non ci sarà mai. Scrive Berlusconi: prima di mettere sui ceti medi un'imposta patrimoniale che impaurisce e paralizza, un'imposta che peraltro sotto il mio governo non si farà mai, pensiamo a uno scambio virtuoso, maggiore libertà, incentivo fiscale all'investimento contro aumento della base impositiva oggi nascosta. Ed eccola lì dunque la proposta sulla quale si discuterà. La premessa è questa: non mi nascondo il problema della particolare aggressività che affligge il sistema politico, ed ecco qui Berlusconi. Ne sono preoccupato, come e più del presidente Napolitano, e per questo, dal momento che il segretario del PD, Bersani, è stato in passato sensibile al tema delle liberalizzazioni, nonostante qualche sua inappropriata associazione al coro strillato dei moralisti un tanto al chilo, alla cultura pragmatica di un emiliano, propongo a lui di agire insieme in Parlamento in forme da concordare per discutere senza pregiudizi ed esclusivismi un grande piano bipartisan per la crescita dell'economia italiana. Un piano del governo il cui fulcro è la riforma costituzionale dell'articolo 41 annunciata da mesi dal ministro Tremonti e misure drastiche di allocazione sul mercato del patrimonio pubblico e di vasta defiscalizzazione a vantaggio delle imprese e dei giovani. Ecco dunque la proposta di Berlusconi a Bersani, un piano bipartisan per il rilancio dell'economia. Vedremo come l'accoglierà Bersani, oggi ci saranno sicuramente le reazioni. Intanto continua l'inchiesta sullo sfondo della politica, l'inchiesta ieri c'è stato nella domenica assonnata e con il traffico fermo a Milano, tra l'altro il tema del nostro sondaggio, no? Parliamo dello smog, ve lo ricordo, c'è stato in questa Milano un po' sonnolenta l'interrogatorio a sorpresa a Nicole Minetti, una delle protagoniste di questa inchiesta nella quale, lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio è coinvolto per reati gravi, prostituzione minorile, concussione. Minetti è stata interrogata dalla Procura di Milano, a sorpresa, è stato anticipato di un paio di giorni l'interrogatorio previsto per dopodomani, credo. Paolo Colonnello ne scrive sulla stampa: 3 ore e mezzo di interrogatorio a tratti teso, talvolta più rilassato, con svariati mi avvalgo della facoltà di non rispondere, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Silvio Berlusconi. Ecco Nicole Minetti a sorpresa ieri pomeriggio alle 14.30, ha anticipato l'interrogatorio fissato mercoledì. Questo anche per dribblare la presenza dei giornalisti che si prevedeva imponente, ingestibile per l'ordine pubblico. Pochi particolari, la difesa della Minetti si è basata soprattutto sull'elemento psicologico del reato, l'inconsapevolezza che il comportamento della giovane favorita del presidente comportasse la commissione di reati. Ho solo 25 anni, aveva insistito nelle sue interviste. La Minetti ha ammesso di aver preso in gestione gli appartamenti di via Olgettina, ben 4 intestati a lei, per ospitarvi le ragazze che frequentano i festini di Arcore. Su molti però non mi avvalgo della facoltà di non rispondere per quel che riguarda le domande sui bunga bunga, insomma sulle serate. Anche se secondo Repubblica in questo interrogatorio sarebbe venuta fuori una nuova carta, addirittura definita da Repubblica l'asso nella manica della procura, vale a dire soldi da Berlusconi a Nicole. Ecco la nuova pista dei magistrati. Sarebbero spuntati nuovi versamenti, nuovi bonifici per svariate decine di migliaia di euro che da Silvio Berlusconi sarebbero arrivati come beneficiario a Nicole Minetti. Spuntano questi versamenti, secondo la procura, secondo l'accusa, potrebbero essere come compensi per arruolare prostitute, questa è d'altronde l'accusa, e fino a oggi e da questi versamenti dovrà difendersi, di questi versamenti dovrà spiegare qualcosa, secondo Repubblica, Nicole Minetti ora ai magistrati. Intanto che t'ha fatto Ruby? Ruby è andata in una discoteca a Rimini. Tutti i giornali, da Repubblica, La Stampa, Il Corriere, ne parlano. Si è presentata, ma sì, c'è stata qualche protesta da parte di alcuni fuori, che dice qualche ragazzo che dicevano siamo indignati la presenza di Ruby. Sta di fatto che è stata insultata, è stata lì un'ora seduta, ha detto 2 parole al microfono, dice La Stampa, in queste parole al microfono sono state sovrastate da musica assordante, insulti da caserma, indifferenza, 5.000 euro per stare lì un'oretta, lui voleva forse 10.000, 15.000, poi ci si è accordati per 5.000. Insomma, Ruby in disco, nessuno se la fila, questo per La Stampa, Ruby in discoteca tra insulti e indifferenza, questo per Repubblica. Così è. E poi, per allargare un po' più gli orizzonti, c'è la situazione in Egitto. Per la verità è un tema che molti giornali mettono in apertura. Ci sono tutti i grandi inviati arrivati in Egitto per raccontare quella che è la fine di un regime. Segnalo tra i tanti articoli che trovate, interessante, con le ronde antisaccheggio, coltelli, tè e frustini. Davide Frattini sul Corriere della Sera racconta come la popolazione tenda anche a difendersi sempre di più, visto che è sparita in molte zone la polizia, ci sono molti saccheggi. Il bambino stringe il coltello, la lama più lunga del suo braccio, il posto di blocco è assemblato con cartelli divelti dalla strada, pietre, tubi della fognatura abbandonati dai lavori in corso che nessuno sa quando riprenderanno. Le auto vengono fermate, i passeggeri identificati, passano solo i vicini di casa, i poveri tengono fuori i poveri che hanno ancora meno. È la voglia di organizzarsi, di cercare di fare delle ronde private anti-saccheggio. D'altronde il saccheggio sta un po' coinvolgendo tutte le strutture, anche strutture millenarie, anche strutture che accolgono i tesori millenari dell'Egitto, vale a dire il grande museo egizio che c'è per esempio al Cairo. Così come altra preoccupazione per gli stranieri, in questo caso stranieri in fuga, abbiamo paura, questo racconta La Stampa, pagina 6, con la Farnesina che coordina il rientro degli italiani, Washington richiama a casa gli americani. Certo, la situazione in Egitto è davvero sempre più difficile, dicevamo, sempre il Corriere della Sera si concentra proprio sui tesori d'Egitto saccheggiati nella storia, dalla stele di Rosetta al busto di Nefertiti fino alle mummie danneggiate al museo, racconta Viviana Mazza di come i manifestanti se la siano presi proprio con il Museo Egizio del Cairo, vetrine spaccate, preziose statuette in terracotta d'epoca faraonica ridotte in frantumi, due mummie a pezzi. Questo è successo nei giorni scorsi. Certo, non sono gli aspetti principali di questa rivolta, di questo cambiamento politico epocale che sta travolgendo tutto il Maghreb, ma certo sono gli aspetti secondari, ma se volete in qualche modo anche di colore, ma anche interessanti da leggere, che trovate in questo caso sul Corriere della Sera. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo dalle notizie di cronaca e da altre notizie sui giornali. In primo piano. L'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, come detto, è dedicato al fisco. Tra l'altro vi voglio segnalare che proprio da oggi parte un'iniziativa, e lo trovate il primo numero in edicola, vale a dire Azienda Facile con il Sole 24 Ore, parte Azienda Facile per cercare di orientare tutte le piccole e medie imprese, tutte le imprese nella gestione del fisco, la fiscalità d'impresa. E proprio dedicata al fisco la pagina 5 sulle novità. A partire da domani il fisco accelera sulla via delle sanzioni. Da domani ci saranno penalità maggiorate su ravvedimento e concordata. Aumentano dunque le sanzioni fiscali per i contribuenti. I ritocchi proprio entrano in vigore domani per tutte le penalità previste per gli strumenti che consentono di evitare il contenzioso. In pratica, chi cerca un accordo su un avviso di accertamento o la conciliazione davanti alla giustizia tributaria dovrà pagare un prezzo decisamente più alto. Come cambiano tutte le sanzioni domani, cioè a pagina 5 lo trovate. Da domani non solo i rincari per gli strumenti deflattivi, pesanti penalità accompagnano tutti i nuovi adempimenti, per esempio chi ricorre all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, all'adesione in vita e il contraddittorio. Quelli che sono le sanzioni fino a oggi, quelle che saranno le sanzioni da domani le trovate a pagina 5. Voglio andare a una notizia invece, notizia di cronaca, una notizia di cronaca che vede in subbuglio i medici di base. La troviamo sviluppata sia su Repubblica che sul Quotidiano Nazionale. Certificati sanitari online e caos, i medici, fermate le sanzioni, da domani scattano le multe, i sindacati dicono ci sono delle falle nel sistema. Ne parla per esempio Michele Bocci su Repubblica. Di cosa si tratta? Da domani i medici italiani sono pronti a fare disobbedienza civile contro il governo, dando vita a una protesta senza precedenti. È una battaglia dei certificati online che sta per arrivare al suo culmine. Dal 1 febbraio, infatti, che cosa è prevista? È prevista l'applicazione delle sanzioni per tutti i camici bianchi che non mandano per via informatica all'INPS i referti di malattia. Se i dati del malato non vengono comunicati per due volte, può scattare il licenziamento. Solo di che cosa si lamentano i medici? E io sono stato testimone diretto dal mio medico di base, una volta ne ha avuto bisogno, che spesso ci sono medici che non hanno connessioni ancora in parte d'Italia. Ci sono dei medici che lamentano connessioni inadeguate, non funzionano i computer, non funziona la via telematica, il cervellone a volte si blocca, per cui bisogna stare ore lì a provare a mandare in via telematica il certificato, insomma, e quindi molti medici dicono: ma non siamo pronti, non siamo tutti pronti, il sistema non è pronto, e dunque fa scattare le sanzioni, è un qualcosa di sbagliato. Anche per il quotidiano nazionale Malattia, via i certificati online, i medici non siamo pronti, l'obbligo parte domani, ma i medici dicono bisogna fare un anno almeno di stop alle multe. Voglio andare ad altre segnalazioni. Beh, trovate questa interessante sulla Stampa: anche la spazzatura merita un museo. A Genova, io non ci credevo, invece sì, e tra l'altro c'è la firma di Renzo Piano, quindi insomma non mica l'ultimo degli architetti. A Genova nasce la prima esposizione permanente dedicata al rumenta. Installazioni artistiche e laboratori per insegnare la cultura del riciclo, questo a Genova un immenso immondezzosauro incomberà terrorizzanti all'ingresso per rendere perfettamente le dimensioni. La minaccia dei 550 kg di rifiuti pro capite l'anno, a Genova la media nazionale sale a 650. Ecco il simbolo del Museo della Rumenta. Il primo del genere in Italia, sarà allestito come memento, punto educativo e laboratorio di ricerca aperto a tutte le più nuove scoperte in materia, ai magazzini dell'abbondanza. Quando sarà pronto? Credo a giugno. Col sindaco Marta Vincenzi che dice: tanto per confermare che a Genova non si butta via nulla, tra giugno e novembre, ecco, giusto in occasione del Festival della Scienza, verrà realizzato questo Museo della Spazzatura. Rimanendo a Genova, beh, il secolo XIX si interroga su un tema di stringente attualità, un tema per la verità c'è su tutti i giornali, ma il secolo XIX lo mette in prima pagina, un dilemma amletico su cui l'Italia ovviamente dibatte, sul quale l'Italia si interroga profondamente. Belén Rodríguez è incinta? Questo si chiede il secolo XIX in prima pagina. E con un corollario di bufera a Sanremo. Tiziana Leone, Belén è incinta? Si chiede Tiziana Leone sul secolo. La prospettiva di un Sanremo all'ultimo test di gravidanza, tante volte anche Elisabetta Canalis arrivasse un po' più in carne, la lancia Massimo Giletti. Ieri nel bel mezzo di Domenica In si è lanciato nel gossip. Da quel che so, Belén è incinta, ha detto Giletti. E si è scatenato un putiferio, tra l'altro con telefonata in diretta, cioè non come Berlusconi contro Gallerne o Mauro Masi contro Michele Santoro, ma Massimo Giletti contro Gianmarco Mazzi, vedi, cioè il direttore artistico di Sanremo, che ha messo giù il telefono, pare, io non l'ho vista ovviamente, pare che abbia messo giù il telefono in maniera molto scocciata. Poi sta di fatto che c'è stato anche una rissa telefonica con Corona a Domenica 5 con Corona e la Nina Moric, cioè la ex moglie, la madre di suo figlio. La Moric l'ha accusato di non avere, di non gestire il figlio, di non dare soldi per il figlio, di non telefonare mai. Lui ha detto: io lo tratto benissimo, è lei che è impazzita, anzi se vado con la forza a prendere mio figlio rischiamo di finire sulla cronaca nera. Questo ha dichiarato pacatamente Fabrizio Corona. Sta di fatto che Belén è incinta? Questa è la domanda che si pongono oggi i giornali. Mentre chiudo con la Gazzetta dello Sport, giustamente dedica la prima pagina a Pazzini, il neo bomber nerazzurro. Sentite come scandisco bene le parole, così non mi accusate, tanto il Milan è sempre primo, non mi accusate di parlare della Gazzetta come fate solo quando vince il Milan. Ha vinto l'Inter, tra l'altro Inter pazzesca, ha vinto anche, ha stravinto il Napoli, così la nostra Antonella Migliaccio in redazione esaltata, insomma Inter pazzesca, questo è il titolo di apertura della Gazzetta. Effettivamente è entrato Pazzini, ha risolto dallo 0-2 3-2 per l'Inter. Ci fermiamo noi invece, il nostro sondaggio è sul traffico, il traffico con il blocco del traffico a Milano, a Torino, serve contro lo smog? Questo ci chiediamo. Ora il GR 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan per l'intervista di oggi. Voglio salutare il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. Buongiorno, Monsignor Mogavero. Buongiorno. Ci parla da Algeri in questo momento. Algeri, tra l'altro, io ricordo che, ricordiamo agli ascoltatori, già a gennaio ci furono delle violente proteste contro il caro vita. Senta, Monsignor Mogavero, vorrei proprio partire da qui, dalla situazione nel Maghreb. Uno guarda l'Algeria, ma poi la Tunisia, anche l'Egitto. Vi preoccupa questa situazione? Ma la situazione vista da fuori certamente suscita parecchie apprensioni. Nei giorni scorsi, in modo particolare, prima che io arrivassi qui, per quello che succedeva in Algeria e soprattutto in Tunisia, adesso di più per l'Egitto. Però arrivando sul posto, evidentemente la sensazione è diversa da quella che si ha per le notizie che si leggono o si possono vedere sui telegiornali. E qui in Algeria la situazione è abbastanza tranquilla, ad Algeri almeno, e non si hanno notizie di disordini o di altre manifestazioni violente. A Tunisi ho assistito, diciamo, agli epigoni delle vicende che hanno poi portato alla formazione del nuovo governo, ma anche lì le manifestazioni erano piuttosto dire ordinate, forse è un po' troppo enfatico o irenico, però c'è una grande forza di volontà, soprattutto nella gioventù, di influire in modo determinante nelle sorti del paese. Ma questo secondo lei cosa vuol dire? Cioè, cosa sta succedendo? Stiamo percependo quello che sta succedendo in questi paesi? Qualcuno dice è l'89, cioè la caduta del muro di Berlino per questi paesi. Ma adesso forse è troppo presto per fare paragoni con eventi così epocali. Certamente c'è una presa di consapevolezza fortissima, e quello che impressiona è che sono due categorie in particolare protagoniste di questo momento: i giovani e le donne. Quindi c'è una presa di consapevolezza che fin qui queste persone sono state un po' costrette in binari che oggi sono assolutamente insufficienti per il grado di cultura, di attesa. Forse il tutto ha avuto inizio da fattori, diciamo, di carattere economico, però il quadro si è allargato e l'aver diciamo in maniera non così cruenta, almeno per la Tunisia, determinato un capovolgimento che fino a un mese fa sembrava assolutamente impensabile, credo che la dica lunga sulla consapevolezza di queste persone e sulla capacità che hanno avuto di dare una svolta qualitativamente rilevante alla storia e all'ordinamento del loro paese. Monsignore, io le chiedo questo: lei è vescovo a Mazara del Vallo, non ha mai fatto mistero, insomma, che sul tema dei migranti è un tema che la vede in primo piano. Oggi il ministro dell'Interno Maroni, certo lei non avrà avuto modo di vedere i giornali, ma in un'intervista al Corriere della Sera dice: vedendo quello che succede, temo, per quel che riguarda l'Italia, l'invasione. Noi siamo la porta dell'Europa. Lei teme ugualmente che una serie di persone possano riversarsi da questa situazione di caos sulle nostre coste? Ma io non ho la stessa percezione, anche perché in questi paesi, in questo momento, ripeto, Tunisia e Algeria li ho visti di persona, l'Egitto so quello che arriva attraverso i reportage. Non sono paesi in disordine, non sono paesi che mettono le persone in condizione di dire qui non si può più vivere, vado via. Anzi, si ha la percezione che qui si voglia effettivamente innovare per starci e vivere una qualità della vita di molto migliore. Le chiedo invece, so che è lì, ma è anche questo un tema sul quale lei non ha mai risparmiato critiche in passato, visto da lì la situazione politica italiana, o comunque la situazione che coinvolge anche il nostro Presidente del Consiglio con tutte le intercettazioni, tutto quello che gli stralci delle notizie che si sono succedute sui giornali in questi giorni. Lei che considerazioni può fare? Dobbiamo dire che la debolezza delle diverse forme di governo o dei diversi regimi sta tutta nell'approssimazione che coloro che governano le nazioni manifestano. Anche qui c'era parecchia corruzione, c'era una debolezza che era attribuibile al fatto che in Tunisia, per esempio, tutte le leve dell'economia e del potere erano nelle mani del presidente, della sua famiglia e della sua potentissima moglie. In Italia diciamo che i problemi sono di carattere diverso, sono di ordine morale, ma diciamo che la radice comune è la debolezza della personalità dei governanti, la mancanza di limpidezza o di trasparenza nella loro vita, nei loro affari, e questo ci riporta al solito nodo che anche il Cardinal Bagnasco ha messo in rilievo la scorsa settimana, e cioè la rilevanza degli aspetti della vita privata in chi ha dei ruoli pubblici nei quali la sua vita privata non può essere considerata un elemento accessorio o un elemento indipendente. Dalla moralità della vita ne nasce la moralità del governo, dalla immoralità della vita ne può discendere la immoralità nel governo. E questa debolezza lei la vede anche nel nostro Presidente del Consiglio? È abbastanza, credo che sia sotto gli occhi di tutti, che poi si possa eccepire che tutto questo venga fuori attraverso delle intercettazioni che potrebbero avere per qualcuno il sapore di una persecuzione o di una eccessiva ingerenza nella vita privata, si può discutere, ma i fatti restano quelli che sono. La ringrazio, buona giornata Monsignor Mogavero. Buona giornata a lei. Grazie per essere stato con noi da Algeri, in diretta da Algeri, Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, anche un ruolo importante all'interno della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, vale a dire i vescovi italiani. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi dovete votare, e dovete già votare, lo state facendo in molti. Il sondaggio di Radio 24 oggi si dedica allo smog. Lo smog nelle città. Ieri la prima giornata senza traffico, Milano, Torino, anche Napoli. Servono provvedimenti utili, su questo ci interroghiamo, di questo parliamo, le nostre città, dove si respira molto bene. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete votare radio24.it. siamo anche su Facebook 24 mattino, tra poco 24 mattino. Le 8:32 minuti, eccoci qua a parlare dunque di inquinamento nelle nostre città, perché ieri a Milano, a Torino, anche a Napoli il traffico si è fermato. La decisione di bloccare il traffico per dare così un segnale contro l'inquinamento è un provvedimento utile. Questo ci chiediamo, vi chiediamo nel nostro sondaggio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Io sono nato a Milano. Sono nato in città, con le radici nell'asfalto. E non le rinnego. Mi piace tutto della città. La confusione, il rumore, l'inquinamento. Ma sì, anche le polveri sottili. Che figata. E invece non sopporto chi dice, basta con la città, ma vuoi mettere la vita in campagna? No, che non la voglio mettere. È il classico cittadino pentito, quello che incontri ti dice, io ho mollato tutto. E sai dove sono andato a vivere? No, in Val Fraschione. E dov'è? Vicinissimo, 40 minuti dal centro. Sì, 40 minuti di notte, la notte di Ferragosto, col vento a favore. Vabbè, Gioele Dix la vede così, e viva anche le polveri sottili. Intanto io voglio salutare Mario Tozzi, buongiorno, geologo, divulgatore scientifico. Allora, la notizia di partenza è questa, che ci ha fatto sapere Lega Ambiente che sulle polveri sottili è un disastro, 48 città capoluogo di provincia superano le soglie, non voglio entrarmi nelle soglie, i livelli eccetera, ma Mario Tozzi ci aiuterà. Però la domanda che ci poniamo è: ma questi provvedimenti sono utili o no? Perché ieri il sindaco Letizia Moratti sul Corriere della Sera ha detto: so che non serve a sconfiggere, però sono utili in questo momento questi provvedimenti. Tozzi. Ma hanno un valore simbolico senz'altro molto importante, perché ci dicono che si può fare a meno dell'autovettura almeno un giorno alla settimana, fosse anche quello di festa. E dunque, per questa ragione, se fossero davvero 52 i giorni senza autovetture, cioè tutte le settimane, allora avrebbero anche un significato in termini di peso di emissioni inquinanti. Naturalmente non lo sono in termini risolutivi del problema, sì, è evidente, questo è sotto gli occhi di tutti, perché non è che possono, una giornata può alleviare, ma certamente non solo non risolve, ma nemmeno contribuisce in maniera significativa, se non per quell'intorno di tempo. Valgono come simbolo, quello ci dice che nelle città ormai la strada è quella, chiudere i centri storici e i centri delle città al traffico privato, perché altrimenti non si respira letteralmente più. Io tra l'altro devo dire, per il momento i nostri ascoltatori che votano su Radio24.it dicono il 60% dicono no, non sono utili, perché chiedo, Tozzi, se sono utili come così per farci pensare un attimo, per farci ragionare che poi la strada è quella, ma poi quella strada non si imbocca, allora sono utili a niente, insomma, se non a passare una bella giornata sull'asfalto, ma con un po' più di silenzio. Sì, questo è evidente, se non sono il viatico per un cambiamento, ma molto spesso i sindaci sono obbligati a farlo, perché altrimenti incorrerebbero in un'omissione di ufficio, quando i dati dell'inquinamento sono tali che non si può fare altrimenti che non interrompere la circolazione privata, poi in realtà neanche in maniera totale. A proposito delle polveri che si diceva prima, vorrei ricordare che sia polveri sottili o ultrasottili, cosiddetto PM2,5 addirittura, quello proprio che ti entra direttamente in contatto col sangue attraverso la respirazione, oppure le diossine, tutte quelle che ci sono e che vengono provocate dalle combustioni, ecco, per quella roba lì è probabilmente una soglia, non c'è nemmeno, nel senso che la soglia è zero, non ci dovrebbero proprio essere. Noi ci siamo assuefatti e dunque ne facciamo un problema di regole, ma di fatto nessuna di queste cose ha una soglia di tolleranza per un organismo animale. Io intanto voglio salutare, ci ascoltano, Valeria Corbella, buongiorno. Buongiorno. Valeria Corbella è presidente dei genitori antismog a Milano, so che siete molto agguerriti, è pronta credo anche una manifestazione sabato prossimo, no? Esatto, bravo che lo dice, 5 febbraio, lo diciamo. Scala. Eccoci qua, ci sarà una manifestazione. E poi voglio salutare da Teramo, dall'Abruzzo, il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Poi arriva Valeria Corbella. Sindaco, voi che avete fatto? Vi abbiamo ripescato nella nostra redazione, perché abbiamo letto questa cosa delle biciclette blu. Ma è vero, cioè, che lei, sindaco, e gli assessori andate in bicicletta blu? Cioè, ci spieghi un po'. Sì, sì, assolutamente vero. Io il giorno dopo che sono stato eletto, cioè circa 2 anni fa, abbiamo dismesso le auto blu, ne abbiamo una soltanto, e ci siamo dotati di una bici blu, quindi sia il sindaco che i 10 assessori a proprie spese hanno acquistato una bici, l'abbiamo anche, come dire, abbiamo dato anche un nome, nel senso che ognuno ha scritto il proprio assessorato, io ho scritto sindaco, e andiamo in giro per la città, per il centro storico con la bici blu, insomma. Non si può neanche rubargliela, mi permetta la battuta, perché è marchiata, lei, sindaco. Una volta è stata rubata la mia bici, ma chiaramente l'hanno rubato la bici. È stata ritrovata subito, perché era, voglio dire, facilmente riconoscibile, quindi. Ma io sono d'accordo con chi ha detto sul discorso delle domeniche ecologiche, che di fatto servono a poco, se non per sensibilizzare i cittadini. Noi abbiamo, uno degli slogan della mia campagna elettorale era Teramo, città della bici e del pedone, che non è soltanto uno slogan, perché poi l'abbiamo messo in atto, abbiamo iniziato un progetto di bike sharing e quindi abbiamo dotato la città di biciclette che possono essere utilizzate da tutti i cittadini, e devo dire che la risposta è stata importante. Teramo è un centro storico chiuso al traffico, non molto grande, perché la città, insomma, è una cittadina di 56.000 abitanti, però in qualche modo stiamo lavorando su questa direzione. Io credo che bisogna un po' invertire da un punto di vista culturale quello che è oramai un'abitudine, che insomma porta anche poi al risultato delle polveri sottili, che è quello di usare sempre e comunque la macchina anche per fare 100 metri. Questo sicuramente. Io torniamo per un attimo a Milano. Valeria Corbella, voi cosa chiedete, al di là di Moratti o non Moratti, all'amministrazione comunale, poniamoci di qualunque grande città, in questo caso voi siete agguerrite su Milano, che cosa chiedete all'amministrazione? Cosa dovrebbe fare un amministratore per contrastare lo smog? Ma guardi, io sono addirittura nell'imbarazzo, perché si stanno ripetendo la stessa identica situazione che c'era l'anno scorso, che in realtà a Milano patiamo da molti anni, però in particolare l'anno scorso noi abbiamo dovuto indire un'altra, una prima manifestazione dopo 22 giorni di sforamento fortissimo dei limiti, chiedendo misure strutturali, piani strategici. È passato un anno e non è successo assolutamente niente, al punto che appunto dobbiamo di nuovo riscendere in piazza. Le cose da fare sono moltissime. A questo punto veramente pensiamo che sia un handicap grave culturale, per non pensare a motivi di interesse di altro genere, perché per esempio in emergenza smog ci sono dei provvedimenti immediati e a costo zero, per che esempio? Tra l'altro non farebbero male per tutto l'inverno. Per esempio abbiamo uno strumento che in realtà è un gioiello, che è Ecopass, che è stato svuotato di senso. Allora, allargare Ecopass perlomeno nei giorni di picco. Spieghiamo per chi non è di Milano. Spieghiamo per chi non è di Milano. Ecopass vuol dire il divieto di entrare in una zona, diciamo, centrale di Milano. Ecco, allargare questa zona, cioè non fare. No, allargare è un provvedimento già complesso, costoso, che necessita di concertazione. Io dico, la cerchia che adesso è segnata dalle telecamere di Ecopass. Sì, sì. Se fosse a pedaggio per tutti i tipi di autoveicoli sarebbe un provvedimento, cioè, lei sta dicendo immediato, bisogna, a costo zero. Lei sta dicendo bisogna colpire nel portafogli chi usa la macchina, traduciamola così. Sì, certo, perché bisogna che ci adattiamo al concetto che chi inquina paga, non possiamo più permetterci diversamente. Oh, e le macchine. Poi dico un'altra cosa. Sì. Limitazione severe alla circolazione diurna dei veicoli merci. Noi non abbiamo più un regolamento che limita o perlomeno appunto regola la circolazione dei veicoli merci, che sono responsabili per un 30% delle emissioni. Però le chiedo, mi scusi signora Corbella, le così caldaie andiamo... aspetti che le caldaie, le caldaie, certo. Per chi dice che siamo solo nemici giurati dell'auto, tutte a 19 gradi. Oh, io ma la seguo, con controlli, la con seguo, controlli. La seguo sulle caldaie, perché se certo. Lei mi blocca le auto e mi blocca i veicoli che distribuiscono le merci di giorno, e come va avanti una città, voglio dire? Poi dopo vogliamo magari il latte sotto casa anche alle 5 del pomeriggio. Però. Allora, questi sono i massimalismi che vanno evitati, perché portano allo scontro diretto. Noi dovremmo sederci a un tavolo e negoziare, come hanno fatto tutte le capitali europee, pervenendo a sistemi di limitazione e sistemi logistici che portano un'infinità di soluzioni moderate e condivise, e per arrivare a dare un colpo a un cerchio e un colpo alla botte, sì. Come si dice. Allora, vediamo un po', intanto le caldaie, mandate le caldaie. Appunto, no, ma per dire la situazione, perché anche Decorato l'altro giorno ha detto caldaie a 19 gradi, ma se non vi sono controlli, se non comincia a mettere a norma di temperatura tutti i suoi uffici dove si sta con la finestra aperta. Guardi, lo so, abito al secondo piano, ho deciso, visto che ho il centralizzato, che se metto un 3 o 4 mangrovie, che sono delle piante belle tropicali, secondo me in casa mi crescono benissimo, perché devo stare a volte con la finestra aperta dal tanto caldo che c'è in casa. Sentiamo il primo ascoltatore, anzi ascoltatrice, all'800240024. Bianca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono buongiorno. Bianca. Volevo dare la mia opinione. Io certo. Non sono d'accordo nel fermare le auto alla domenica, perché non serve secondo me a niente, se non a mettere in difficoltà chi magari fa un lavoro che non è impiegatizio, che la macchina magari la deve usare proprio in quel giorno. Pronto? Dice proprio la domenica, perché ha un lavoro che non è... Mio marito è musicista e ha difficoltà effettivamente, si crea veramente, ci sono dei problemi. Secondo me dovrebbero innanzitutto diminuire i costi dei mezzi pubblici, che li trovo comunque alti, a cominciare dai treni, in modo tale da incentivare proprio le persone a usare, a non usare la macchina. Dice alti, poi dopo, insomma, giustamente Moretti ogni tanto ci dice, siamo i più bassi, Moretti è l'amministratore delegato delle ferrovie, siamo tra i biglietti più bassi di tutta l'Europa. Io li trovo altissimi. Alti, altissimi. Anche perché se uno si muove con la famiglia, una famiglia normale di quattro persone, fai due calcoli e dici forse mi conviene di più prendere la macchina. Allora, grazie Bianca. Vorrei prima delle informazioni sul traffico, per l'appunto, da Mario Tozzi un parere sulla questione, quello che ci ha detto la signora Valeria Corbella, presidente genitore Antismog Milano. È più il riscaldamento? Per esempio so che a Renzi, a Firenze, l'ha voluto abbassare, ha detto va abbassato per legge, o più le macchine, o più i veicoli, o più quelli che trasportano merci che creano problemi. Tutti i provvedimenti strutturali però naturalmente, sì, perché certo, non è che si può pensare di passarli in cavalleria. Intanto per i costi, guardate che il costo dell'autovettura comunque è senz'altro maggiore di quello che avremmo col mezzo pubblico, perché se no ci trinceriamo sempre dietro una scusa per non prendere i mezzi pubblici in città. L'Italia è il paese che ha più autovetture in Europa come percentuale per numero di abitanti, dunque questo problema ce lo dobbiamo porre, cioè noi ne abbiamo veramente troppe. Veramente ne abbiamo troppe, è una questione anche di ingombri oltre che di inquinamenti, perché le nostre città sono strangolate dalle vetture in ogni caso, insomma, e la velocità media delle vetture nelle città italiane oggi è la stessa di 100 anni fa con le carrozze a cavalli, 13 km all'ora. Sì. Ci poniamo questo problema, cioè, poi non è che noi ci abbiamo guadagnato se non nella comodità, quella senz'altro, ma insomma nella velocità di spostamento il traffico mica ti unisce, ti isola semmai. Questo sicuramente. Andiamo appunto a sentire come va il traffico in Italia e poi ripartiamo. 800 24 00 24. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, il 61% continuate a votare su Radio24.it dice non sono provvedimenti utili quelli del blocco al traffico. Sentiamo Ruggero da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica Ruggero. Volevo semplicemente affermare il concetto che secondo me non è giusto, cioè non serve per un semplice fatto, perché dà l'impressione più di volersi allineare, voler fare una cosa giusto per essere a norma, per non infrangere la legge, che per fare qualcosa di utile. Beh, Ruggero, però non lo dica così, cioè, come ci ha detto Mario Tozzi, non è che si fa una cosa giusto per essere a norma, se c'è una norma va rispettata, voglio dire. Cioè, i sindaci rischiano denunce, e ci sono state delle procure, perché violano la legge, perché non riescono. Ma il problema sta proprio qua, non bisogna aspettare di evitare di infrangere la legge. Bisogna fare interventi che sia giusto fare, subito, più coraggiosi. Interventi strutturali invece di trovarsi a dire... Un problema un po' più allargato che c'è in Italia. Si fa qualcosa giusto, si chiede infrango la legge o faccio qualcosa di giusto? Si pensa a fare qualcosa che non infranga la legge, fa niente che magari è immorale, ingiusto. Per intenderci, l'ultimo commento. Io e mia moglie abbiamo scelto di vivere fuori Milano, inizialmente per un fattore economico, perché le case costano di meno. Alla fine ci siamo innamorati di vivere in provincia. In Val Fraschione, come direbbe Joelle Dix. Però noi siamo le classiche persone dipendenti dalla macchina, che fanno 50 km al giorno andare e 50 tornare, che li eviterebbero volentieri anche perché abbiamo un bambino piccolo. Però uscire da questa spirale cosa vuol dire? Vuol dire interfacciarsi con persone che, non è una critica, predicano bene, quindi vuol dire stare vicino, avere tutto vicino a casa, usare la bicicletta, male. Ma non è possibile farlo. Allora, grazie Ruggero. Massimiliano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Portavo l'esperienza di una famiglia numerosa, io ho 4 bambini e mi chiedo come farei a muovermi senza la macchina. Sarebbe decisamente complesso, tenendo conto che io abito nella zona sud di Milano che è servita fino a un certo orario, e dopodiché auguri e speriamo di tornare a casa sani e salvi. Quindi è vero quello che i collegamenti, cioè i mezzi, cioè ci fossero i mezzi, dice, i mezzi disponibili. Guarda, io ho appena parcheggiato la macchina al parcheggio di Romolo, sto andando a prendere la metropolitana per andare in centro, io lavoro in centro. Però il passaggio da casa mia a Romolo, passando per la scuola dei bambini, diventa complicato. Insomma, dalla periferia alla Romolo, per chi sempre ci ascolta di tutta Italia, è una zona periferica di Milano servita dalla metropolitana. Sindaco Brucchi, torniamo appunto a Teramo. Questi forse sono discorsi da grande città, oppure i discorsi da piccola, media città possono essere discorsi simili? Forse no, forse voi siete in una situazione un po' più favorevole. Per questo qualcuno dice sembra un po' un'iniziativa quella, non dico pubblicitaria, mi perdoni se passo questo tema, è un po' da spot quella di andare con la bicicletta blu. No, guardi, problemi più o meno sono gli stessi, perché anche noi, pur avendo una zona pedonale o una ZTL, abbiamo le stesse problematiche, perché comunque i cittadini vogliono arrivare magari davanti al negozio con la macchina, i commercianti si lamentano che se non ci sono le macchine, diciamo, gli affari vanno male, i problemi del trasporto urbano sono problemi che anche per le piccole città ci sono, voglio dire, le problematiche sono più o meno simili, magari su rapporti diversi, ma guarda, ho ascoltato anche un po' i radioascoltatori, il problema è un problema culturale, io capisco il papà che ha 4 bambini e che magari ha qualche difficoltà in più, però se ci mettiamo nella media delle persone, delle famiglie, c'è questa tendenza ad avere anche, ma lo diceva anche il dottore lì, anche 3 macchine in una famiglia dove ci sono 3 persone, cioè il problema è questo, e tutti quanti magari prendono la macchina per poi andare magari anche in posti più o meno vicini. Noi abbiamo cercato anche di mettere in atto un progetto con la provincia, per chi viene a lavorare da fuori stiamo facendo abbiamo programmato degli incentivi, degli spazi per parcheggiare, per chi magari arriva e viene, non so, vengono da città vicine e si uniscono tutti in una macchina e hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente in centro storico. Questo per agevolare un po' e per ridurre l'utilizzo della macchina. Il problema è culturale, il problema culturale è quello di Milano, ma è anche quello di Teramo. No, quello di chi vuole arrivare sicuramente sempre davanti, dovunque, davanti ai negozi, no, Mario Tozzi, dovunque. Il sindaco di Teramo che ci dice che se vuole arrivare con la macchina davanti al negozio, insomma, è l'emblema un po' di quello che è un modo di porsi anche tipicamente italiano, o no? O mi sbaglio, Tozzi? Non si sbaglia, in realtà il problema dell'autovettura in Italia è diventato talmente tanto strutturale che le piccole città, i piccoli centri storici dell'Italia centro-settentrionale da tempo hanno chiuso il loro perimetro alle auto private. A Perugia si sale con le scale mobili, a Orvieto con l'ascensore, cioè l'autovettura si lascia fuori. Questo sarà inevitabile, cioè per avere un mezzo pubblico efficiente e che abbia tempi di percorrenza decenti, non si può prima, diciamo, aumentare il numero dei mezzi pubblici e poi diminuire le auto private. È necessario fare il contrario, però purtroppo questo è un provvedimento impopolare che nessuno prende volentieri, ma sarà quello inevitabile, indispensabile, altrimenti i dati sono quelli sotto che elezioni, sotto elezioni, poi elezioni amministrative in questo caso nelle grandi città. Ecco, appunto, ma non c'è nessuno coraggioso. Io non vedo amministratori che hanno un impeto di coraggio e cerchino di trasportare i cittadini su un ideale di questo tipo, trasporto collettivo rafforzato in cambio però di una rinuncia perlomeno parziale, voglio dire, all'autovettura. Esiste anche qui, io non ho più l'autovettura, no, perché poi è facile parlare, però poi bisogna pure mettere in pratica. Questa non ha l'autovettura, Mario Tozzi? No, ci ho rinunciato. Ho uno scooter di quelli che si ferma dopo 3 secondi, no, si spegne, perché inquina di meno, perché quegli elettrici purtroppo in Italia non si possono usare perché non c'è modo di ricaricarli per strada. Uso il mezzo pubblico e uso il car sharing, cioè l'auto condivisa. Con una tesserina tu prendi l'autovettura per il tempo e per i chilometri, paghi per il tempo e per i chilometri che la utilizzi, e ho scoperto che in 6 mesi l'avrò presa 3 o 4 volte, cioè quant'è la necessità? Chiaro, io sono privilegiato, lo dico subito, diciamo, ma per quelli che sono privilegiati, perché non cominciano loro? Poi c'è chi non ne può proprio fare a meno, io questo non lo discuto, insomma, figuriamoci, ma si potrà vedere caso per caso. Chi invece può fare a meno dell'autovettura o ridurla, perché non lo fa ancora? Perché siamo così schiavi, così alienati dall'automezzo? Ecco, vedo, per esempio, l'ascoltatore ci scrive, sono a Roma e devo lavorare, ci metto 1 ora con la macchina, se devo prendere i mezzi ci metto 2 ore. Risultato, che faccio? Privilegio la comodità, ci metto la metà del tempo e me ne sto in macchina, ascolto magari Radio 24 e via così. In ogni caso, io mi devo fermare, vi ringrazio tutti davvero, da Mario Tozzi al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi del Popolo della Libertà, non ho detto il partito, me ne scuso, eccoci qua, e Valeria Corbella, presidente genitori antismog a Milano, che il 5 febbraio manifesteranno in Piazza della Scala, quindi a ridosso del comune, per protestare contro lo smog. Ci fermiamo con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, la linea va a Oscar Giannino come di consueto a quest'ora, e noi ci troviamo quando? Domani mattina alle 7:20. A domani.